Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, parliamo di macchine, di automobili, di una casa molto nota, perché c'è una cosa particolare che sta capitando e che voi come Adico state seguendo. Sì Francesco, oggi parliamo più di una curiosità, insomma, se si può definire così, e che riguarda ancora la Volkswagen, che quindi diciamo che non sta vivendo il suo periodo più roseo sotto tutti i punti di vista. E noi sappiamo benissimo, Francesco, abbiamo parlato anche altre volte della questione, abbiamo parlato un po' tutti della questione del Dieselgate, quindi di questi software inseriti in alcune auto diesel della Volkswagen, tramite il quale era appunto possibile truccare le emissioni e quindi aggirare un po' i vincoli ambientali. Questo scandalo un po' lo conosciamo tutti, sappiamo bene che Volkswagen, con un grande sforzo economico, ha richiamato tutte le vetture alle quali avevano questo software, e l'ha richiamata appunto per sostituirlo. Cosa succede adesso? Succede che in molte occasioni il concessionario o il service partner della Volkswagen, quando cambiava il software, dava anche, lasciava anche un omaggio che chiaramente era fornito dal gruppo Volkswagen, ovviamente. Sì. Un omaggio che consisteva in un portachiavi, che consisteva, possiamo dire ormai, in una batteria portatile Volkswagen Power Bank 10400, andiamo a definirla proprio tecnicamente, una batteria portatile. Ecco, dopo questo omaggio fatto appositamente, insomma, per chiedere un po' scusa agli automobilisti, in questo momento stanno arrivando le lettere tramite le quali Volkswagen chiede agli automobilisti, ai proprietari di autovetture che abbiano ricevuto questo omaggio, di rimandare indietro la batteria portatile, perché ha evidenziato rare anomalie, leggo testualmente, di funzionamento che potrebbero causarne il surriscaldamento con potenziale pericolo per la sicurezza. Insomma, come dicevo, per Volkswagen non è un grande periodo, e anche l'omaggio in questo caso non è pericoloso per la salute delle persone. Sì, in questo caso proprio è pericoloso perché si può surriscaldare. Ecco, quelle batterie portatili che servono, che ne so, a ricaricare il telefonino piuttosto. Esattamente, no? Esattamente. Ecco, non stiamo parlando ovviamente delle batterie dell'auto, ma delle batterie portatili, power bank, con le quali si può appunto ricaricare il telefonino. Chiaramente qua stiamo parlando di un surriscaldamento che chiaramente potrebbe portare anche a il soggetto che tiene in mano la batteria portatile a bruciarsi. Quindi l'omaggio, che dovrà servire anche un po' per scusarsi per il comportamento tenuto disonesto da parte di chi ha progettato questo software, sta risultando un po' un boomerang. Ora chiaramente qua stiamo parlando è una curiosità, è un fatto sicuramente, è una nuova spesa chiaramente per il gruppo tedesco, chiaramente è anche un impegno per chi ha ricevuto questo omaggio, perché adesso dovrà rimandarlo indietro in qualche maniera, per cui diciamo siamo ancora in una situazione di pasticcio per il gruppo Volkswagen. In questo ambito Adico, che come abbiamo già detto altre volte, è in prima linea e sta seguendo decine e decine di persone, di soci, di automobilisti, proprio sulla questione del Dieselgate. Ecco, Adico prosegue la sua battaglia, perché in questo momento, dopo aver inviato una prima diffida alla casa automobilistica, stiamo proseguendo la nostra azione, perché, come avevo già detto in altre occasioni, noi intendiamo avviare appunto una richiesta risarcitoria, nel senso che, al di là del fatto che Volkswagen poi abbia richiamato le autovetture incriminate e ne abbia cambiato il software, per quanto ci riguarda rimane appunto aperta tutta la questione risarcitoria, perché in ogni caso al momento dell'acquisto l'automobilista ha comprato una macchina che pensava avere certe caratteristiche e invece ne aveva altre. Ecco. Mm-hmm. Su questo discorso noi non intendiamo minimamente mollare, faremo un tentativo di mediazione con la casa automobilistica e dopodiché, se necessario, avvieremo delle cause vere e proprie. In questo ambito e appunto anche la questione della batteria portatile, di questo regalo, di questo omaggio che adesso torna indietro per motivi di sicurezza, in ogni caso, anche se funzionasse, per quanto ci riguarda, non avrebbe alcun valore risarcitorio, ovviamente, ma sarebbe solo un regalino, diciamo, che sì, poi adesso si è verificato essere pericoloso. I classici gadget da pochi euro, insomma, se vogliamo. Sì, in questo caso abbiamo detto un gadget da pochi euro, portachiave funzionante, ma addirittura da pochi euro e pericolosi. Quindi, ecco, noi non è che adesso vogliamo dire niente riguardo a questo alla Volkswagen, diciamo, non sta vivendo un bel periodo da questo punto di vista, motivo in più, secondo noi, ovviamente, per mostrare una capacità di dialogo nei confronti degli automobilisti, quindi un'apertura anche per quanto riguarda la richiesta risarcitoria. Molto legittima. Gianluca, è chiusa la possibilità per chi ha una Volkswagen di entrare in questo collettivo, o c'è ancora la disponibilità anche da parte vostra di ricevere nuove iscrizioni in questo senso? No, noi siamo aperti a nuove iscrizioni. Chiaramente la prima fase è quella di una prima diffida che abbiamo fatto per tutti, nella quale appunto si contesta già inizialmente l'azione risarcitoria. Quindi ecco, chi dovesse appunto poi proseguire in questa direzione sa che può intanto seguire questa prima azione e dopodiché accodarsi a questa seconda che stiamo per iniziare, che quindi è un'azione risarcitoria e che rispetto alla diffida chiaramente è un tentativo di mediazione, e attendiamo appunto che si presenti Volkswagen a questa mediazione. Se non si presenterà, proseguiremo, poi ogni proprietario di autovettura deciderà se andare avanti o meno, però noi riteniamo che ci siano tutte le ragioni per andare a chiedere appunto un risarcimento proprio per l'acquisto di una vettura che poi si è rivelata non corrispondere alle nostre esigenze, certo, almeno inizialmente. Allora, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate anche i contatti per chiedere lumi all'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, al prossimo appuntamento. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.